Italia in controluce. Buongiorno a tutti, da Daniele Biacchesi, Italia in controluce, racconto della cronaca italiana attraverso le piccole e le grandi storie di eccellenza e problemi del nostro paese. Questa è una brutta storia, iniziata male, continuata male e non ancora finita. Questa è la storia dell'omicidio di Via Poma, che ancora oggi, a distanza di tanto tempo dal fatto, continua a dividere opinione pubblica e investigatori. Il racconto di Cristina Carpinelli. È il 1 luglio del 1990. Simonetta Cesaroni, 20 anni e mezzo, inizia a lavorare come contabile presso la Reli SAS, uno studio commerciale in zona Casilina, a Roma. La società è gestita da Ermanno Bizocchi e Salvatore Volponi. Il martedì e giovedì Simonetta va nell'ufficio di Via Poma 2, quartiere della Vittoria, e ci resta sempre 3 ore e mezza, dalle 16 alle 19.30. Il 7 agosto 1990 Simonetta entra in ufficio alle 16. Verrà trovata senza vita, seminuda, dalla sorella alle 23.30. Chi è entrato? Chi l'ha uccisa? Il 3 febbraio 2010 il pubblico ministero, Ilario Calò, ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio di Raniero Busco, allora fidanzato di Simonetta. La storia non convince però Paolo Loria, difensore di Busco, intervistato da Andrea Viali. Tutto non mi convince, innanzitutto la contaminazione dei tessuti tra Corpetto e Reggiseno. Secondo, questa labile conclusione di compatibilità generica senza indicare quanto sia questo grado di compatibilità per quanto riguarda la perizia ematica. E poi questa, io ritengo assolutamente kafkiana perizia sul morso, ma assolutamente kafkiana, perché è evidentissimo che è stata costruita semplicemente per arrivare ad una conclusione, che quel tipo di incisione potesse riferirsi o potesse essere compatibile con la bocca di Busco. Sono molti a sostenere che Busco non c'entri niente con l'uccisione di Simonetta. Anche Igor Patruno, giornalista e scrittore che sul delitto di Via Poma ha scritto La ragazza con l'ombrellino rosa, sostiene che Busco non c'entri. Sentiamo. Il processo è un processo indiziario, non c'è una prova. Anche gli indizi sono molto discutibili. Alla fine questo processo diventerà uno scontro tra periti, i periti di parte che sosterranno una certa tesi e i periti del pubblico ministero che ne sosterranno un'altra. Però insomma la mia impressione è che Raniero Busco francamente con l'omicidio non c'entri nulla. Mi viene da chiedere quale potesse essere la motivazione ad uccidere, insomma. E allora chi ha ucciso Simonetta e perché non ci sono ancora risposte? Facciamo un passo indietro. Nel 1990 il portiere dello stabile di Via Poma era Pietro Vanacore. Sarà uno dei primi a finire sotto i riflettori come possibile assassino di Simonetta. Vanacore è morto suicida quest'anno, il 9 marzo. Un suicidio rocambolesco. Si è legato a un albero per una caviglia e si è gettato in acqua in località Torre Ovo, vicino a Torricella. Il 12 marzo avrebbe dovuto deporre all'udienza del processo. Prima di arrivare però alle fasi finali di questo processo, dobbiamo fare ancora un altro passo indietro. Nel 1996 si apre un'inchiesta, la Check to Check. Sembra che tra le carte vi sia una pista inesplorata. Ferruccio Pinotti è il giornalista dell'ANSA che ha fatto uscire queste notizie sul Corriere della Sera e sulle quali continua a indagare. Questo caso appare troppo complesso per ridursi a un semplice delitto passionale. Quindi può essere comprensibile, dicevo, che si cerchi di vagliare la posizione dell'ex fidanzato Raniero Busco. Tuttavia diciamo, vi sono delle incongruenze notevoli. Di qui è derivato poi lo scoop che io ho proposto e scritto per il Corriere della Sera, che riguardava una possibile pista alternativa. Stai parlando dell'inchiesta, quella del 96, la Check to Check? Esatto, nell'ambito di questa inchiesta Check to Check, personaggio dai contorni indubbiamente misteriosi che è tuttora detenuto Luciano Porcari, spontaneamente rende delle dichiarazioni nell'ambito dell'inchiesta che non c'entrava con i fatti di Via Poma, quindi la Check to Check, e afferma di aver operato per una società che aveva supporto una società gemella situata in Via Poma e che questa società aveva dei contatti con le attività nelle quali si muoveva Simonetta Cesaroni. Porcari asserisce che Cesaroni è stata uccisa proprio perché aveva avuto conoscenza